Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Ecco qua. Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Buongiorno, comincia oggi anche la nostra preparazione pre-campionato di calcio e la facciamo dalla radio, non potendo andare in trasferta in montagna e non potendo nemmeno beneficiare dell'aria buona che ci fa allargare polmoni e cervello, cercheremo di farlo a modo nostro, così un po' di spazio nel cervello per quanto mi riguarda soprattutto, per capire un po' di più su questo mondo del calcio, perché per potersi difendere da qualcosa è bene conoscerla e non solo per mettersi al riparo da eventuali insidie, ma anche per capire se c'è un modo di tirarci fuori qualcosa. È giusto premettere, come avrete già capito, che io sono una non tifosa. Di calcio parlo poco se non nulla, pur vivendo in un paese come l'Italia dove si scende in campo ogni giorno almeno linguisticamente. Quanti di voi si sono salvati in corner o si sono trovati in zona Cesarini, persino io so che cos'è, per non parlare di cartellini rossi, fuorigioco, falli, eccetera. E proprio perché non ne so nulla, forse sono la persona giusta per trovare il lato interessante del calcio. Quello che può attirare i più improbabili, gli insospettabili, quelli che a pochi giorni dal fischio d'inizio del campionato si sentono già infastiditi da tutto il parlare che se ne farà. Io ho anche la scusante di essere femmina, perché si sa, le femmine parlano solo di shopping e sono i maschi a parlare solo di calcio, come in una scena bellissima di Trainspotting, non so se ve la ricordate, per poi scoprire che in realtà si parla tutti e due solo di sesso. Ma non divaghiamo, pur centrando il sesso col calcio. Di quanto c'entri con lo shopping ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata agli acquisti estivi. Diamo inizio alla puntata. Quanto significa per voi il calcio? Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Eh sì, se non ci sei dentro forse non puoi capire, credo sia proprio così. Era Febbre a 90, il film che anche quelli come me che non amano il calcio hanno amato tanto, tratto dal libro di Nick Hornby. E in Gran Bretagna la situazione è simile a quella italiana in quanto a importanza e seguito di questo sport. Ma voi come lo vivete questo inizio di campionato? È vero che se non ci sei dentro non puoi capire? Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per le domeniche allo stadio, che poi non è più solo la domenica? 800 24 00 24 per parlare con noi in diretta e 349 238 6666 per i vostri SMS. Quanto vi sentite determinanti per la vostra squadra di calcio se siete tifosi e quanto invece credete che si debbano prendere le distanze da tutto questo calcio? E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa in maggio, puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio. E che male c'è in questo? Anzi, è piuttosto confortante se ci pensi. Il campionato di calcio è confortante. Sembrerebbe uno strano accostamento, calcio con confortante. Eppure, certo che raccontato come ce lo racconta Nick Hornby, sembra esserci qualcosa di poetico. Beh, prima di Hornby ci hanno pensato grandi poeti di casa nostra. Giacomo Leopardi nel 1821 scrive a un vincitore nel pallone, dove si dice di prendere la vita come un gioco, come il calcio, come se fosse una partita di calcio. Bisogna giocare la partita, bisogna giocare la vita. E non è necessario stare attenti all'azione, purché l'azione ci sia. È come, insomma, per dirla alla De Gregori, Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un secolo più tardi rispetto a Leopardi, nel 1933, arriva Umberto Saba che scrive 5 poesie sul gioco del calcio. Va detto che Saba scopre il calcio casualmente. Entra per la prima volta in uno stadio per accompagnare la figlia che vuole andare a vedere la squadra di casa, la Triestina, e fino a quel momento anche lui aveva provato questa irritazione verso tutti quei tifosi che vanno in delirio e si disperano seguendo la propria squadra di calcio. Secondo lui non c'era un senso in quel delirio, ma dentro allo stadio ha iniziato a sentire il calore della folla, come ci racconta in Squadra Paesana, e è rimasto rapito dalla magia del calcio, dal gesto atletico del campione, dal volo del portiere, dalle lacrime dello sconfitto e degli urli del vincitore. Allora perché vergognarsene? Di un po', Ma non sarei mica uno di quelli scalmanati ultra che vanno allo stadio con Sandrino? Gli scalmanati ultra? Io sono pacifica, io fifo e lascio fifre. Ah, meno male, perché io quelli li odio. Sapessi quanti li odio? È tutta gente ignorante, violenta, dei veri bastardi. Sì, ma baggi nero azzurri, bestiali. Le donne solitamente sono le più insofferenti nei confronti del calcio, meglio nei confronti della fede calcistica di fidanzati e mariti. Anni fa più di adesso, va detto, perché le cose sono un po' cambiate. Ormai esiste un tifo femminile che proprio da mariti, fidanzati, padri, fratelli o comunque da una componente maschile ha ereditato la passione, come ci dice una ricerca dell'Università La Sapienza di Roma. Innanzitutto, ci dice questa ricerca, la maggior parte delle tifose ha dai 35 ai 45 anni ed ha un livello culturale medio-alto, altro che ignoranti come dice la Sandrelli da Batantuono. 800 24 00 24 per parlare con lui e raccontarci le vostre storie di calcio e 349 238 6666 per i vostri SMS. Voi da che parte state? Dalla parte di chi come me di calcio parla solo ogni 4 anni, cioè quando ci sono i mondiali, o siete delle tifose? Sopravvivenza. Oggi si parla di campionato di calcio. 800 24 00 24 per parlare con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Avete bisogno di tecniche di sopravvivenza o al contrario non vedete l'ora che ci sia questo fischio d'inizio? Sono arrivati dei bei messaggi. Leggo quello di Teo da Milano e dice: il calcio è fondamentale, mi permette di uscire la sera senza trovare mai coda ai cinema, mostre, ristoranti, locali. Oppure Fede da Alessandria: mia moglie è come lei, zero calcio, ma invidia questa mia passione, dice che è uno sfogo equilibratore che lei non riesce a trovare in altro. Sì, noi oggi stiamo cercando di capire se ci sono delle tecniche di sopravvivenza e io parlo soprattutto alle donne, perché io di calcio non ne capisco nulla. Quindi a voi avete bisogno di tecniche di sopravvivenza, perché si tende a credere che siano le donne le vittime del calcio, che rapisce per mesi e mesi i mariti e i fidanzati. Anche se lo sport maschile per eccellenza, quindi il calcio, secondo alcuni ricercatori danesi dell'Università di Copenaghen, dovrebbe essere praticato più diffusamente anche dalle donne. Nello studio pubblicato sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, i ricercatori hanno seguito per un periodo di 2 anni un campione di 100 donne che non erano abituate all'esercizio fisico, quindi a fare sport. Hanno cercato di capire, di analizzare gli aspetti fisiologici, sociologici e psicologici del calcio femminile, paragonandoli a un altro sport che è molto caro alle donne ed è la corsa. Quindi calcio contro corsa. Il calcio si è confermato sport allena cuore per eccellenza. Quello che è risultato sorprendente da questo studio sono le differenti motivazioni che si sono riscontrate nelle calciatrici rispetto alle runner, a chi correva. Il divertimento e l'interazione sociale che innesca il calcio sono state incredibili rispetto alla preoccupazione di dimagrire e di raggiungere una forma fisica ottimale, che era prevalente invece nelle donne che erano dedite alla corsa. La conseguenza di tutto ciò è stato che alla fine dello studio il gruppo di donne calciatrici ha continuato gli allenamenti, mentre molte delle donne impegnate nel jogging hanno abbandonato l'attività. Ma vediamo però cosa ne pensa del calcio e dell'inizio del campionato di calcio una donna che il calcio ce l'ha in famiglia. Alice Bregoli, la moglie di Alberto Gilardino. Alice? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, come sopravvivi tu all'inizio del campionato di calcio? Diciamo che, vabbè, tornate dalle vacanze, si sistemano un po' tutti i costumi, le creme abbronzanti e tutte le cose dell'estate, si rispolverano tutti i portafortuna e le maglie viola poi per andare allo stadio la domenica. Giustamente, perché tu segui tuo marito? Sì, lo seguo quando posso, con la bambina andiamo allo stadio la domenica. Non lo seguo in trasferta. Certo, e quindi per i mondiali come hai fatto? Ecco, per i mondiali si vedeva collegamenti via Skype, perché voleva vederci, ma è stata la bambina, quindi prima delle partite ci salutavamo, facevamo in bocca al lupo del caso, e poi lo seguiva in televisione, sempre a casa. Perciò la tua tecnica di sopravvivenza è stargli vicino, stare vicino, sì, ad Alberto. Sì, stai vicino, se posso vado allo stadio di Ginevra, indosso la maglietta viola col numero del papà e ecco, sì, ti chiamo per lui. Ma che bello! Ma senti, ma fate anche i coretti, modo. Fate anche i coretti da stadio, avete una canzoncina, qualcosa che cantate, tu e Ginevra? Io no, vabbè, Ginevra le sente allo stadio, allora gliele canta, sì, qualche canzoncina gliela canta. È ancora piccola perché ha 2 anni e mezzo, ma già capisce, già fa... Quando suona il violino Alberto, quando fa gol, è un modo per esultare, allora lei anche lei fa... Fa il gesto. Lo imita e fa, sì, suona il violino. Che meraviglia. E invece la tecnica di sopravvivenza, appunto, per seguirlo allo stadio, cioè avete dei gesti scaramantici, fate delle cose prima che lui inizi la partita? Prima che inizia la partita, va bene, lo sentiamo solo al mattino, poi ovviamente lui è in riunione con la squadra, non lo sentiamo proprio prima della partita, ci mancherebbe, vi facciamo in bocca al lupo al mattino, poi abbiamo Ginevra la sua maglietta viola, io ho un portafortuna che mi metto in borsa e quando si va allo stadio si va con le altre mogli, gli altri bambini, si tifa tutti insieme. Bellissimo, grazie mille Alice. grazie a voi. Ciao. Cosa importa chi vincerà? Tecniche di sopravvivenza, si parla di calcio, sì, non avete sbagliato trasmissione. Oggi cerchiamo di capire se esistono delle tecniche di sopravvivenza per l'inizio del campionato di calcio. 800 24 00 24 per raccontarci in diretta le vostre tecniche di sopravvivenza e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Calcio sì o calcio no? Gigi D'Alecco mi scrive: il calcio per me è come un cibo andato a male, quando hai fame lo mangi ugualmente. Ma non è per tutti la stessa cosa, non tutti sono insofferenti, un po' dipende anche da che parte lo si guarda, se dal campo, se dagli spalti, se da casa. Ci siamo tolti lo sfizio di chiederlo ad un ex arbitro del calcio italiano e adesso opinionista di Mediaset Premium. È con noi al telefono Graziano Cesari. Buongiorno signor Cesari. Buongiorno. Buongiorno. Lo lasci da parte. Lo lasciamo da parte il signore. Graziano. Allora, ci racconti le sue tecniche di sopravvivenza, quando era in campo e o adesso che invece ne è uscito. Allora, diciamo che ho cominciato a sopravvivere nel 90 quando sono arrivato in Serie A, perché il calcio che facevo prima, che frequentavo prima, è un calcio ai margini del grande pubblico, quindi mi permetteva una vita totalmente tranquilla. E da lì ho cominciato a fare che cosa? A cercare di sopravvivere prima della partita, durante la partita e soprattutto anche dopo. Ci credo. Il dopo non è facile per un arbitro, immagino. Ma prima della partita cercavo di conoscere tutto quello che regola questo delicatissimo mondo. Cercare la conoscenza, la perfetta integrazione con quello che erano persone di diverse culture, di diverse stazioni sociali e persone di origini etniche e ambientali diverse, le conoscenze nel mondo del calcio, quindi cercavo di informarmi, poi certo. Durante la partita cercavo di mettere in pratica quelli che sono i piccoli accorgimenti per evitare le trappole, le insidie durante la partita, ma soprattutto dopo, che era molto molto difficile, perché la perfetta conoscenza di quello di prima e durante era nulla rispetto a quello dopo, quindi a me faceva sorridere e fa sorridere ancora adesso chi diceva: ah, un arbitro non deve leggere le pagelle, un arbitro non deve vedere la televisione, non deve sentire la radio, non deve leggere i giornali. Ma non scherziamo mica. La mia principale cosa era quella di assistere alla trasmissione della domenica sera, di vedere la moviola che mi coinvolgeva direttamente e soprattutto di vedere le pagelle del lunedì certo. E i giudizi che scrivevano su di me. Ma le è mai capitato? È certo, a capire, esatto, ma le è mai capitato di fare un errore di cui si è poi pentito? Tanti, lei pensi che ho abitato a 170 partite di Serie A, ho tediato per 13 anni, quindi tantissimi errori ci sono stati. E lì come si sopravvive all'errore? Si sopravvive cercando di trovare tanta buona volontà, la forza, la voglia di quando si cade di rinascere immediatamente, di guardare la partita successiva e soprattutto con una scolata di spalle. Certe volte si è fatto in buona fede e credo che sia l'errore arbitrale sia accettato da tutti. Quando c'è un pochettino di malafede o un pochettino di ambiguità, allora diventa difficile poi riprendere. Naturalmente, ma come si sopravvive al pubblico che di solito non è molto simpatico con gli arbitri? Ah, no, mai, non ho mai trovato un pubblico consenziente nelle mie decisioni. In qualche modo scontentavo una delle due parti. Già, non si può, non si può piacere a tutti, mettiamola no, così. E si sopravvive cercando di fare la persona normale, usando del buon senso, usando il giusto arbitrale che non manca mai e usando l'intuizione. Certo. Queste sono le regole di buon senso. E adesso che invece è uscito dal campo, come la vive? Come lo vive questo inizio di campionato? Ancora peggio, perché adesso sei etichettato come tifoso di una squadra o tifoso dell'altra, perché i miei giudizi sono spesso giudizi che sono assolutamente aderenti al regolamento e quindi se c'è calcio di rigore per una squadra inevitabilmente scontento quegli altri. Poi nella mia posizione di Mediaset lei può immaginare come sono etichettato, cioè sono molto vicino a una squadra e immediatamente sono talmente lontano dall'altra squadra. Ma per esempio un arbitro non può ovviamente tifare per nessuno, no? Quando fa l'arbitro. No, ma dico, all'inizio era difficile. Genova, no, ma era difficile. Era difficile all'inizio? Era difficilissimo, ma non ho mai abdicato a quella che era una realtà normale. Ah. Cioè, io quando sono nato tifoso del Genoa, poi ho fatto l'arbitro dopo. Ah, giusto. Quindi in ritiro guardavo il Genoa. Prima è nata l'amore per la squadra e poi per la professione, giustamente. Non sono mica nato arbitro, non mi facciano chiedere quelli nuovi, sono nati arbitro. Nato genuano ma non nato arbitro, giustamente. No, beh, io la ringrazio tantissimo per le sue tecniche di sopravvivenza e allora buon inizio di campionato. È buon inizio di campionato, speriamo, è un bocca al lupo a tutti gli arbitri e un bocca al lupo alla sua trasmissione. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:32. Oggi stiamo parlando di come sopravvivere al campionato di calcio che è prossimo. Domenica prossima ci sarà il fischio d'inizio e vi stiamo chiedendo quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza. 800 24 0024 per parlare con noi in diretta o i vostri messaggi 349 238 6666. Ce ne sono di incredibili, sarà il tema probabilmente che vi sta stuzzicando particolarmente. Questo sembra una poesia. Bruno da Rivoli e scrive: sopra un'erba pettinata da militare corrono bambini con cosce da 30 kg, le sopracciglia rifatte, milioni in tasca per il gelato e veline che aspettano. Il calcio? Una palla. Oppure Grace e Frankie che scrivono: siamo una coppia anomala, lui simpatizzante Juve, lei tifosissima Inter. Abbiamo 40 anni e ci amiamo tanto. Si convive con il calcio, Morena. Come in tutte le cose ci vuole pazienza da un lato e rispetto dall'altro. Oppure Ivan di Vicenza dice: secondo me il calcio è uno sport molto sopravvalutato. A me piace giocato ogni tanto, ma non seguirlo in TV allo stadio. E non trovo giusto che nei programmi sportivi e telegiornali si parli solo di quello. MotoGP e Formula 1. Grazie. Questo è delizioso. Matteo da Milano. Gli incontri segreti messo tra virgolette più frequenti sono quelli durante la partita. Alle terme, deserte con solo donne, si sentono certi discorsi tra le astanti che... poveri tifosi. Oppure Max invece che dice: calcio sì, sempre, e mia moglie è felicissima di condividere il tutto con me. Chi lo odia lo fa solo per snobismo. Ma come ci si difendeva dal calcio nella storia? 26 agosto 1972 si aprono a Monaco di Baviera in Germania i giochi della 20ª Olimpiade. 26 agosto 1928. L'indomani si firma il patto Kellogg-Briand che mette fuori legge la guerra. A quando quello che mette fuori legge la domenica a casa da sole perché lui è andato allo stadio? 26 agosto 1970. Oltre 1,5 milioni di giovani si riunisce per assistere al festival sull'isola di Wight. La musica, una buona alternativa allo sport. 800 24 0024 per parlare con noi. Non siate timidi, raccontateci le vostre tecniche di sopravvivenza per sopravvivere all'inizio del campionato di calcio. Vorrei anche ringraziare Roberto, che mi ha scritto un messaggio al 349-238-6666. Un messaggio che non c'entra proprio con il calcio, ma è molto carino. Grazie Roberto. Perché sì, oggi si parla di calcio, o di football, come lo chiama mio padre. Ah, per dovere di cronaca, io di famiglia sono interista, anche se non pratico, adesso so che molti saranno insorti. Ma lo dico perché ho nominato mio padre, ovviamente, che è un interista puro. E anche se l'anno scorso non era difficile essere interista, persino per una come me, c'era Mourinho, e il calcio non mi sembrava così noioso. Quante donne hanno pensato la stessa cosa? 106. Mister, lei è molto amato anche dalle donne. Questa è una domanda intellettualmente onesta. È vero, non nego. Sono amato anche della tua donna. Poi, no. Prova a chiedere. Ma no, ma guardi, ma perché deve... Ma perché però deve... di a tua moglie che il baccalaureo era insipido l'altra sera. Si vede che era stordita dopo. Beh, non è colpa mia se io piaccio, io sono George Clooney. Ma no, non... Sì, è vero, sono più George Clooney. George Clooney non sa fare George Clooney come lo so fare io. Sono più George Clooney io di George Clooney. Crozza fenomenale, ma sì, molte donne tifose, tra queste c'ero anch'io a modo mio la scorsa stagione, quest'anno forse tiferò Real Madrid, comunque molte donne tifose dicevamo, ma anche molte donne vittime della febbre da stadio. Uno dei tanti studi sul calcio e i comportamenti degli italiani, ce n'è addirittura uno del Centro Artes di Torino, specializzato nella diagnosi e nella terapia della sterilità di coppia, che dice che in occasione di grandi eventi calcistici diminuisce la frequenza di rapporti sessuali nelle coppie. In questi periodi al sesso è preferita la televisione, in questi periodi inteso quando ci sono grandi eventi calcistici, e con il conseguente crollo delle nascite nei mesi successivi. Ecco quanto c'entra il calcio con il sesso, e non solo, come ci raccontava l'ascoltatore di prima, che alle terme si sentono questi discorsi di donne. Ma la colpa sarà di lei o di lui? Ma dipende da chi è il fanatico, anche se le donne secondo me hanno più bisogno di avere delle tecniche di sopravvivenza. Lo chiediamo a Cristiano Militello, inviato di Striscia la Notizia e conduttore con Valerio Staffelli di Striscia la Domenica. Ciao Cristiano. Ciao, ciao a tutti. Ma dunque, innanzitutto si fa un grosso torto oramai a una larga componente femminile che popola gli stadi italiani. Alcuni stadi italiani sono molto rosa, mi viene in mente Genova su tutte e due le sponde, genovana e sampdoriana, lo stadio di Firenze, anche a Roma ci sono molte donne che seguono lo sport. È anche vero che poi ogni due anni con le kermesse europee e mondiali alla fine poi insomma sono veramente pochissimi i giorni che si trascorrono senza pallone. Io per questo sono un po' anomalo, sarà perché magari faccio overdose durante l'inverno, quindi preferirei in effetti che ci fosse uno stacco più marcato, quindi mi accomuno a molte donne che sopportano silenziosamente anticipi, posticipi, coppe e quant'altro. Anzi, io auspico veramente un ritorno, ma sono un vecchio romantico, di tutto il calcio che si giocava la domenica alle 3, insomma, ecco, gli spezzatini non mi piacciono molto. Certo. Ma infatti, proprio per questo, visto che ormai ci sono partite di calcio tutta la settimana, si può vedere una partita dal lunedì alla domenica ininterrottamente, come si sopravvive anche per chi è un appassionato? Alla fine non è che si può fare questa overdose di calcio. No, io sono completamente d'accordo e penso che anche sia da affrontare il discorso legato alle pay TV. È vero che gli addetti ai lavori gongolano, perché poi sono oramai le pay TV che portano i soldi, insomma, commercialmente parlando, nel mondo del calcio. È vero anche che le partite a tutte le ore e tutti i giorni hanno fatto anche un danno enorme, sia per quanto riguarda i disagi dei tifosi. Quest'anno entrerà in vigore il turno addirittura la domenica mattina a mezzogiorno, si parla anche di posticipi il lunedì sera. Insomma, è sempre più difficile per un tifoso seguire ad orari canonici insomma la propria squadra. Inoltre mi vengono in mente anche tantissime squadre medio-piccole, quelle dei campionati inferiori. È chiaro che se io vado a vedere giocare il Poggi Bonzi la domenica, ma ho la possibilità di vedere le partite comodamente al bar, è difficile per queste squadre poi fare gli incassi e attirare i tifosi a vedere magari i campionati dilettanteschi, mentre prima il problema non si poneva, si poteva andare a vedere il Poggi Bonzi e sentire la radiolina. Certo. Senti, ma per chiudere, raccontaci qualche aneddoto, qualche cosa di divertente che è successo allo stadio. Ma io, sai, sono un po' uno striscionologo, debbo molto anche, ho in Giulietta Capuleti la il mio stellone, perché insomma, Giulietta Nazzoccola è stato forse lo striscione più noto di questi ultimi 40 anni. Quindi la prima donna, la prima donna vittima del campionato di calcio, mettiamola così. Esatto. Storicamente parlando, sì, insomma, fu la risposta goliardica dei napoletani a una provocazione della partita di andata dei tifosi del Verona. È uno striscione che ricordano tutti, appunto, come risposta simpatica, magari un po' così, un po' grassoccia rispetto, insomma, a quella che era stata un po' una provocazione verbale di 6 mesi prima. Ne cito un altro che sempre riguarda, insomma, l'altra metà del cielo, che sono i fiorentini in trasferta a Como, che scrivono nell'89: voi con maschi, noi con le femmine. Insomma, sembra evidente che poi nell'ordine delle priorità, dopo il pallone, c'era subito un'altra cosa. Eh già, si parla solo di quello, giustamente. Senti, ma quindi ci rivedremo a settembre, abbiamo detto, il 20, vero? Beh, sì, sicuramente. Striscia riparte il 20 settembre. In questo agosto mi sono rivisto vestito da uomo e nonna, perché con l'invitazione di Antonella Clerici oramai insomma, sono sulla bocca di tutti, anche in versione un po' così, un po' trans, che va tanto di moda. Però ripartiamo con in trincea dal 20 settembre con Striscia la notizia versione canonica. Grazie mille, ciao Cristiano, e quindi buon inizio di campionato di calcio. Anche a voi tutti, ciao ciao. Ciao. I vostri messaggi al 349-238-6666. Ce n'è uno di Edoardo che dice: e quando ad essere tifosissima è la moglie? E noi adesso parliamo con Loretta da Vicenza. Ciao Loretta. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, ciao. Com'è parlare di calcio per te? Ma io parlo di calcio da sempre, perché prima di me era tifosa mia mamma. Ah, quindi, tradizione. Sì, ti sto parlando. Io sono 55 anni, quindi andavo allo stadio, che ero piccolissima. Mi ricordo che mia madre mi portava in curva, nella curva Ferrovia del Vicenza, anche d'inverno, e quindi con le coperte di lana, eccetera. Per cui io ho sempre parlato di calcio. Io ho tre fratelli più grandi, e per cui casa mia si masticava di calcio, insomma. Certo. Parlava di calcio. E quindi essere donna donna e calcio alla fine funziona, basta avere la passione. È un ottimo argomento. Quando ero giovane, quando forse ne avevo bisogno, quando ero ragazza, era anche un ottimo argomento di conversazione con i maschi. Vero. Dire, c'era qualcosa di cui parlare. Molto in quel periodo. Invece di parlare del tempo, si parlava del calcio. Il mio primo fidanzatino non amava il calcio, era generosissimo perché veniva anche allo stadio con me. Però lui non amava il calcio. Poi invece alla fine ho sposato uno che invece lo ama. Quindi sì, niente tecniche di sopravvivenza per te per l'inizio del campionato. No, per me è tutto naturale. Diciamo che forse così in effetti c'è un po' di esagerazione nel calcio, perché tutto sommato uno non va più allo stadio al pomeriggio. Vabbè che vedere Vicenza in questo periodo qua non è che sia io sono poi tifosa da Vicenza, quindi non è che sia una gran gioia, però certo. Ti si mette lì in divano e lo si guarda da casa. Sì, si guarda tutto. Grazie mille Loretta per la tua testimonianza. Ciao, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per parlare con noi e raccontarci quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per l'inizio del campionato di calcio. Abbiamo al telefono con noi Luciano da Verona. Ciao Luciano. Buongiorno e buona giornata a tutti. Buongiorno. Io dicevo prima, ascoltando così la trasmissione, che mi era venuto in mente, io mi sono sposato nell'82. Un anno fantastico. Sì, a settembre dell'82 praticamente. E alla sera, finito il pranzo di matrimonio, parlando con lo zio di mia moglie, intervista anche lui, mi fa: guarda, se vuoi mercoledì l'Inter gioca in Coppa delle Coppe, vieni su a Milano, andiamo a vedere la partita, ti procuri il biglietto, non sta a preoccuparti, tutte quante quelle cose lì. E quindi io ho costretto mia moglie, che di calcio non ne capisce assolutamente niente, proprio non sa neanche come è fatto il pallone, a invece di andare a fare il viaggio di nozze a Roma, non è vero, l'hai portata allo stadio invece sì, di l'ho portata allo stadio, e pensa che non sapeva neanche chi era l'Inter, perché mi domandava: ma quelli che stanno correndo da una parte chi sono? Chi è che sono gli altri? E quindi classico. È stata una cosa così, e me lo rinfaccio ancora adesso, dopo 28 anni mi rinfaccio ancora. E ci credo. Ma non l'hai più portata a Roma, o invece no, hai recuperato? Diciamo, non ci siamo più andati. Mi ricordo che siamo andati 2 giorni ad Assisi, il lunedì e il martedì. E il mercoledì siamo tornati su a Milano per vedere questa famosa partita. Caspita, e quindi diciamo che tra il giro dei monumenti e dei musei sei andato nel tempio dello stadio, insomma. Esatto. Bene, grazie mille Luciano. Ecco, buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Arrivederci. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ne è arrivato uno di Enzo che dice: il calcio che adoro è quello dei campetti di periferia, della polvere che ingoi per l'incredibile bellezza di rincorrere un pallone, di fare gol. Il calcio di Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore. Per questo calcio si vive, non si sopravvive. Anche questa poesia fantastica. Oppure Davide che ci scrive: provo forti emozioni solo guardando mio figlio, gioca nei pulcini dell'Onate Ceppino in provincia di Varese. Sì, c'è chi deve sopravvivere e chi invece vive di calcio. Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per sopravvivere, visto che parliamo soprattutto di donne, come abbiamo sentito prima Luciano, che donne che devono sopravvivere alla fede calcistica di mariti, fidanzati, fratelli, amici, tifosi. Mila e basta con sta Mila, ci ha rotto la minchia. State attenti, fratellastri, che state giulando l'undicesimo comandamento della Pippia. Dedica la domenica in Milan, attenti che è finita all'inferno, in mezzo ai diavoletti, state attenti. Milan, Milan, squadra grande, squadra mia, la domenica mi tiene compagnia, si sfoco della mar... Che fai, babbo, mettimela addosso? Disgraziati, io fatico come un animale tutta la settimana, la domenica voglio dormirsi, capito o no? C'è chi vuole dormire la domenica, chi vuole dedicarsi ad altro, ma c'è anche chi, avendolo in casa a livelli dilettantistici amatoriali, cerca di fare quello che può. Abbiamo sentito prima la moglie di un giocatore illustre, la moglie di Gilardino. Vediamo adesso come se la passa la moglie di un giocatore di Serie A, ma del campionato CSI. Per l'esattezza, la moglie di Gabriele Sivori, delle Tigri Amaranto, squadra del centro della gioventù di Gallarate, provincia di Varese. Paola Sola, che forse non ha lo stesso atteggiamento della moglie di Gilardino. Ciao Paola! Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, tu hai delle tecniche di sopravvivenza per l'inizio del campionato di calcio? Sì, qualcuna ce l'ho, perché è dura. È dura? Sì, perché dopo l'estate, che ovviamente passa Gabriele ad allenarsi tra birre, grigliate e varie fiere che ci sono nei paesi, quando inizia il campionato c'è la lotta con la bilancia. Eccola. E quindi non deve mangiare questo, non deve mangiare quell'altro, cioè fa una settimana di dieta per poi dire adesso mi sento un po' in forma. Ah, e quindi ti coinvolge perché ti fa cucinare solo cose... Esatto. Niente puro, niente grassi, quando durante l'estate ovviamente sei dato alla... Ci ha dato dentro. E poi in una settimana pensa di rimediare tutto... Quello, tutti i bagordi, parte. Certo. Esatto. Ma tu sei una che segue il calcio avendo un marito giocatore oppure... Diciamo che sono un po' costretta, volendo, qualche volta bigio e ne approfitto delle sue assenze per fare le mie cose. Poi molte volte vengo coinvolta per fare il tifo, per comunque partecipare un po' a quello che è l'attività del calcio. Certo, ma ti inventi delle scuse per non andare o dici la verità semplicemente? Sì, sempre il ferro da stiro che mi aspetta, puntualmente il sabato e la domenica. Che di solito non si stira mai molto volentieri, ma esatto. Se c'è la partita, vedi. Vabbè, Paola, grazie mille, ma hai in previsione di andare allo stadio, di andare a vedere qualche partita domenica o sei libera? Ma per il momento sono libera, perché loro il campionato lo inizieranno ad ottobre, quindi ho ancora un po' di pausa e poi sì, certamente mi toccherà anche questo tifo per le Tigri. Giusto, grazie mille. Niente. Ciao Paola, grazie. Ciao. Perché? A agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di calcio, di come sopravvivere all'inizio del campionato di calcio. Prima ho ringraziato Roberto per un messaggino che non c'entrava niente con il calcio. Adesso mi tocca ringraziare Enzo. Grazie Enzo per il tuo bellissimo messaggio. Altri messaggi invece legati al calcio mi dicono: per sopravvivere al rito del calcio bisogna inventarsi altre occupazioni. Fare una torta, leggere un libro, uscire per una passeggiata. Oppure Tullio, da Kvar, Croazia, su una bellissima spiaggia: vi sento, sopravvivo benissimo anche senza calcio. Come vi sentite voi adesso? Abbiamo sentito arbitri opinionisti, abbiamo sentito mogli di calciatori, abbiamo sentito uno striscionologo specializzato. Ed io che il calcio non lo seguo, se non per la nazionale o per Mourinho, come ho già detto, non so se mi sento tranquilla. Forse dopo le nostre tecniche di sopravvivenza qualcosa cambierà. Tecniche per uomini e donne, ci mancherebbe. Fatevi amico l'antennista, può tornare utile qualora voleste oscurare alcuni canali a vostro marito. 2. Iscrivetevi a un corso di massaggio thailandese. Può essere un'alternativa allettante, da proporre sempre a vostro marito al posto della scapoli ammogliati che danno su Rete Oratorio. 3. Se la fanatica di calcio è vostra moglie, iscrivetevi a un corso di sesso tantrico per distrarla. 4. A proposito, non sottovalutate il piacere di essere senza di lui o di lei ogni fine settimana per almeno un paio d'ore. 5. Se invece decidete di guardare una partita al suo fianco, prima di fare del sarcasmo sulle azioni dei giocatori, assicuratevi che la sua squadra non stia perdendo. L'ironia non scende mai in campo quando si perde. Mi dicono che non abbiamo minuti di recupero e perciò devo farci stare tutto. Ringraziamenti, saluti e appuntamento per questa sera. Appuntamento per questa sera a Torino Gialla. Un secolo di delitti e misteri insoluti in una Torino scenario di gialli, intrighi, fatti sensazionali e clamorosi casi di cronaca nera. Dall'Ottocento ad oggi una sciarada gialla che va dagli studi di Lombroso all'enigma di Diabolik, dall'assassinio di Vidal Zecca al macabro quiz della Bella Rinin sullo sfondo della città di profondo rosso. Ore 21, partenza e arrivo dalla piazza Statuto numero 15, costo per persona 20 euro, per informazioni 011 66 80 580. Direi che è finita, quindi ringrazio Vittoria Mussini e Laura Faggini in redazione e Carmelo Lauricella in regia. A domani e viva Mourinho. Perché sanno giocare i brasiliani a pallone? Ti sei mai chiesto tu, giornalista che guadagni 1800 euro di mese? Sei mai chiesto perché? Lei ci sa i dare. Brasiliani sanno giocare? No, perché? Perché abbiamo scoperto noi portoghesi. Americani non sanno giocare a pallone. Perché? Perché li avete scoperti voi. E questa è onestà intellettuale. Sì, è una lettura. Potrei dire 64, ma continuo. Ah, grazie. C'era Salerno Reggio Calabria in Portogallo? No. No. C'è Mafia in Portogallo? C'è la piova in Portogallo? No. Sì, c'è, ma noi la mettiamo col bacalao. Bacalao è piovra bollita. Avanti un altro.